Ecco. Ciao Gian Maria, beh. Giulio, tu? Sì, Gian Maria, ciao. Adesso non può senza sentirti. Buongiorno tu. Buon Ferragosto e famiglia. Era colpito, stava per il grattezzo, non c'era nessuno, allora arriva a Glasgow ma sento il computer, anche a pugliare giù, comunque tutto bene, sì, giù. Aspetta Gian Maria, che avevo sbagliato qua, ho toccato il coso dei canali e me ne sono andato in un altro canale. Sì, tutto bene Gian Maria, buon Ferragosto anche a te e famiglia. E tu, come va? Ah, soffi soffi a te di giù e si tira fatti. Ale carossa non è che puoi stare perfetta al 100%, però ce ne sono che stanno peggio. Tra soffiamo, tiriamo avanti finché la barca va giù. Però, grazie a Dio, non mi posso lamentare più tanto, vai. Tutto bene comunque giù. È meglio così, Giovanni, meglio così. Vabbè, anch'io sto cercando di tirare avanti, cosa ci vuoi fare? Non sto uscendo più, perché tanto cos'è sciappare col caldo e poi devi andare in giro con la mascherina. Non puoi incontrare un amico a prendersi un caffè, a entrare in un bar, eccetera. Sicché con questo fatto del coronavirus, allora me ne rimango a casa e esco solo in caso di estrema necessità, come ad esempio che so io, o qualche volta a fare la spesa, se non risulto va sempre mia figlia, oppure che so io a prendere la pressione, queste cose così. Diversamente rimango sempre a casa, mattina e sera. Infatti, ma io la stessa cosa, io è da parecchio a uscire, non mi piace uscire, ma andare a fare la spesa, usciamo in macchina, andiamo da parte all'altra. Però magari non è che se capita magari trovo un amico, magari siamo magari qualche parte, da un caffè e partiamo subito, ma raramente così è, di solito la mattina io non mi alzo, verso 9:30 e me ne scendo in magazzino che lì sotto il portone c'è fresco, c'è un parchetto, mi siedo e passa qualcuno e chiacchierando e ammazziamo un'oretta e dopo metto a salire su e cosa vuoi fare, via. Però sai, il caldo, soffro molto il caldo, che dove vado, vai a nessun posto. Quando scendo in campagna, scendo la mattina presto, al fresco, alle 7 se torno in casa, faccio quello che devo fare e me ne salgo. E così via. Via, per carità. E non ho più voglia, al baracchino non ho più voglia, ascolto molto, io lo accendo, è stato acceso qua. Però non ho voglia di parlare, non mi se ne voglia, mi sacco subito giù. Giovanni, è ovvio, dopo tantissimi anni, ma è normale, no? È normalissimo che uno si stanchi, è ovvio, oltre che abbiamo anche una certa età, per cui anch'io lo stesso, cosa faccio? Un po' al computer, un po' alla televisione, qui a casa, un po' al baracchino quando c'è qualcuno, e tiro avanti così, non è che puoi fare diversamente, ripeto, non esco proprio per paura dei contagi, intanto se esci e non puoi avvicinare nessuno, devi stare con questa mascherina, col caldo, eccetera, tanto vado, me ne andiamo a casa, almeno a casa mi so difendere, a trovare fresco, eccetera, ma se vado in giro e devo mettermi la mascherina perché per paura del contagio, eccetera, e allora cosa faccio? Prima uscivo tutte le mattine mancabilmente, non c'era un giorno che non uscivo, ma adesso da quando c'è questo coronavirus non sono più uscito, poi con la patologia che ho io potrei avere perso un po' di valori immunitari e allora è meglio stare riguardato a casa o Gian Maria. Ma è facile, anch'io sono stesso. Non è che faccia a me, poi in questo caso a uscire e come fa questa cosa a farsi, mi manca l'aria, non riesco a resistere, ho capito, che cioè fresco magari, diciamo altro discorso, ma a caldo come fai? Oh, dici, mamma mia, per carità, perché soffro maestamente caldo, insomma. Per cui cerco di evitare a uscire quando fa caldo. Però quando c'è la necessità, certo, di uscire per forza, allora bisogna andare. Ogni tanto me la tolgo, vedo 30 meno mi dà rimetto, sempre per il fatto dei contagi, cosa vuoi fare? Bisogna stare molto attenti a queste cose, alle palestra magari chiaro che è molto pericoloso, per cui bisogna stare attenti. Chissà che riusciamo a calmare tutto, ma mi sembra che le cose invece calmare stanno aumentando, perché non fanno i controlli come devono fare, ma stanno arrivando, grazie, ma no, come stanno a controllare tutti? Però come regolano, controllano ogni tanto, grazie, e magari quello che infetta non si controllano e giusto veramente, bisogna stare molto attenti perché non si riesce a eliminare il tutto. C'è questa cosa che sta arrivando fortissimo di propagazione. Sì, ma è così, Gio Marino, in effetti è così. Io dovevo fare una visita già dal mese scorso e chiuso, mi aveva assegnato la visita a Oristano, due giorni prima di andare a Oristano mi hanno telefonato di non andarci perché era troppo pericoloso, troppo rischioso per il contagio, e dunque è saltata la visita che dovevo fare. Dopo, successivamente, più in là, ho ritelefonato e allora mi hanno dato l'appuntamento al Nuvolo, e adesso dovrei andare il giorno 9 del mese prossimo al Nuvolo per fare questa visita, sempre per poter continuare quella terapia che io devo continuare a fare, che inizierò qui adesso di nuovo da settembre, solito il trattamento, perché ce l'avevano sospeso per 6 mesi e adesso dovrò incominciare di nuovo ai primi di settembre. Però se non c'è questa visita, perché quella visita serve soprattutto per poter insegnare la terapia che devi fare, è un problema. Ho ritelefonato di nuovo, e mi hanno detto che era aperto ad Alghero, però ad Alghero anziché a settembre addirittura ottobre. Allora tanto male, aspetto settembre, però andiamo di mese in mese, questa visita non la faccio mai, e così ho dovuto accettare quella per settembre, adesso al 9 settembre. Insomma, tutto ha rodato, tutto, per cui per fatto delle appuntamenti che è un caos veramente. Ma io sono stato fortunato che mi hanno ordinato l'ecografia e in realtà che quando c'è qualcuno di mezzo magari me l'hanno fatto dopo la settimana, ho fatto via Platamona e sono stato fortunato, adesso che avevo la vista all'oculista che ho fatto che mi hanno detto, mi hanno soltanto che si chiamano loro quando dobbiamo andare all'oculista. Poi il posto della mia mente penso che si chiamere è di sciupo, che non è in questa modula del tasso, comunque mi ha fatto piacere in giù, magari ogni tanto gli assistiamo e fa piacere, ok? Egio Maria, d'accordo, sai, grazie intanto per la chiacchieratina e ti rinnovo gli auguri di buon Ferragosto, alle prossime, dai. E grazie ancora, Egio Maria, attendi pure. Sì, è bella quando hai questo problema dei guai, chiaramente non bisogna approfittarne troppo, se non succede come è successo a Natalino. Va bene, ciao Natalino, ciao Giovanni, grazie ancora della chiacchieratina, ci sentiamo prossimamente, ciao ciao. Ho chiacchiere per fare a manco della radio, per cui è meglio non disturbare che è molto importante essere tranquillo. Ok, ciao. Ok, ciao Giovanni di nuovo, ciao, alle prossime.